Italia in controluce. La seconda edizione di Italia in controluce, il viaggio quotidiano di Radio 24 nelle storie di cronaca italiana, un programma condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. La prossima sarà la settimana di nuovi grandi reportage sulla cronaca italiana. Parleremo di comuni virtuosi nel ciclo dell'acqua, ricorderemo il terremoto dell'Aquila, la ricostruzione dell'Abruzzo nel primo anniversario, intervisteremo ancora scrittori, personaggi della cultura e dello spettacolo e ci faremo raccontare le città italiane. Restate dunque con noi, con Italia in controluce. E come ogni venerdì a quest'ora cedo la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. In principio fu La Zanzara, il giornale studentesco più famoso d'Italia. Nel 66 fece scandalo con la pubblicazione di un articolo sulla sessualità che portò alla denuncia e al processo di 3 giovani redattori. Ora, se clicchi invece in rete Liceo Parini di Milano, vengono fuori immagini di cene di classe, di scherzi e di tutte quelle stupidaggini di cui gli studenti protagonisti sembrano tanto orgogliosi. E poi ancora l'allagamento finito su tutti i giornali 7 anni fa. E poi, specchio dei tempi che davvero sono cambiati da quegli anni 60, da qualche settimana a questa parte soprattutto viene fuori una valanga di opinioni le più diverse sulla guerra in corso nel prestigioso Liceo Classico Milanese fra insegnanti e genitori. Breve riepilogo dei fatti. A ragazzi e genitori non piace una prof di matematica, ne chiedono con forza la rimozione. La prof decide di mollare perché, a suo dire, aggredita da questi genitori perché troppo severa. Ora sarà un'ispezione a stabilire chi ha ragione. Maria Elisabetta Marinoni fa parte del consiglio d'istituto, componente genitori. I ragazzi dello scorso anno hanno dichiarato della professoressa che il suo comportamento è scorretto sia nelle valutazioni che nei contenuti e che neanche nel rispetto dei ragazzi. Cosa avrebbe fatto? La professoressa è arbitraria nelle valutazioni, non è professionalmente, quindi per l'insegnamento della matematica, adeguata nei contenuti e spesso manca di rispetto verso i ragazzi. Quindi somara, poco rispettosa e ingiusta nelle valutazioni. Questo dicono i ragazzi. Perché invece la professoressa alla stampa, a noi appunto, ha raccontato: sono stata punita o comunque vogliono allontanarmi perché troppo severa, che è una cosa ben diversa. Sì, è molto ben diversa, perché in realtà i genitori vogliono una scuola che sia di qualità, che sia efficiente, che sia severa, però giusta. E i ragazzi sono sinceri nel riconoscere quando ci sono giustizie o quando non ci sono ingiustizie. Diciamo che noi rappresentanti abbiamo questo programma. Il programma di voler essere soggetti attivi nell'esperienza dei figli, quindi presenti, essere un punto di riferimento dei genitori e partecipare costruttivamente, richiedendo alla scuola di rispettare il patto formativo, così come anche i ragazzi devono rispettare, studiare e fare il loro dovere. Se i genitori vengono chiamati a partecipare a quanto succede a scuola, anche attraverso gli organi collegiali, sono tenuti anche a denunciare casi come questo. Cioè, se un insegnante è votato a far dell'altro, è giusto che un genitore insieme al ragazzo lo dica, altrimenti che ci stanno a fare i genitori nelle scuole? Esatto. Peraltro una cosa che il preside straniero, che è preside da 27 anni, senza timore di essere smentito, dichiara che accanto a un 20% di docenti ottimi e super qualificati c'è un 60% di buoni docenti e un 20% di persone che chiamano docenti ma che dovrebbero fare altro. Probabilmente non capisco cosa ci sia da scandalizzarsi quando poi emerge che uno o due docenti che percentualmente sono di molto sotto il 20% al Parini abbiano siano responsabili di inadeguatezza. Perché i genitori spesso vengono accusati di mettere troppo il naso, di proteggere i propri figli, di non riconoscere nei professori l'autorità, di lamentarsi perché sono troppo severi, invece poveri bambini che vengono vessati. Però guarda, insomma, quando siamo di fronte a un professore che non è capace, bisognerà pur dirlo. Io penso comunque che valgano le stesse regole del 20-60-20, nel buon senso e nelle capacità e nell'adeguatezza di ogni categoria umana, quindi che ci possano essere dei genitori che non abbiano sempre un atteggiamento corretto. Non è però questo certamente il caso, quindi tutto il caso secondo me ha assunto le dimensioni che ha assunto perché porta con sé tutta un atteggiamento e una situazione della scuola in disagio con chi vuole capire le situazioni e vuole dire la propria. Anche il preside Pessina del Bercè riconosce che i genitori sono sempre stati vissuti con disagio e che sono con irritazione tollerati. Non soltanto per portare i soldi, non o soltanto per portare per la carta igienica, tagliare i panettoni nelle scuole, alle feste, ma con una legittima presenza. Ci sono nella scuola e dunque rivendicano il loro diritto ad esserci davvero i genitori, purché però questa legittima aspirazione non sfoci in invadenza, come invece qualche volta capita a sentire Antonella Landi, una prof toscana che ha scritto un libro il cui titolo la dice lunga: tutta colpa dei genitori. Guardi, indubbiamente i tempi sono cambiati. Io insegno da 19 anni e le dico onestamente che vedo un grande cambiamento nell'atteggiamento da parte dei genitori. Ecco, mentre all'inizio della mia carriera, pur essendo stata io all'epoca giovane, ecco, quando ho cominciato subito dopo la laurea, vedevo un rispetto e comunque un modo di porsi nei nostri confronti, appunto, proprio più di ascolto, no, che di imposizione. Ora vedo che tante volte sono numerosi, ecco, gli episodi in cui i genitori vengono a protestare, per esempio, per una valutazione negativa. Ma io cito sempre questo episodio che mi riguarda e che mi coinvolge in prima persona, di quando appunto quel genitore, facendosi portavoce di tutta la riunione dei genitori che si era tenuta prima del consiglio di classe, mi riportò che secondo loro io facevo leggere troppi libri. Si doveva dare una calmata, troppi libri. Sì, infatti, insomma, ora magari contestiamo su altre cose, ma non su scelte didattiche, oltretutto avallate, sostenute e condivise dai loro figli stessi, ecco. Quindi io questo cambiamento lo noto, ecco, lo cos'è? Notiamo. Cos'è? Mancanza di educazione, mancanza di rispetto? Ma che cos'è secondo lei? Io penso anche che sia il fatto che le nuove generazioni dei genitori hanno studiato più di quelle che ci hanno preceduto, insomma. Chiaramente i miei genitori andavano al ricevimento dei professori in atteggiamento reverenziale e tutto quello che loro dicevano mai avrebbero osato metterlo in discussione. La colpa era sempre mia a prescindere, e il giudizio negativo di un professore, anche qualora ci fosse stato, se lo tenevano per sé. Ora tutto questo non accade più. Anche in positivo, perché insomma non è poi detto che il ragazzo abbia sempre torto, insomma, no? No, magari no, però insomma è difficile giudicare un professore se non lo si vede lavorare sul campo. Tante volte insomma i ragazzi hanno anche una doppia faccia, cioè a casa magari si comportano in un modo e a scuola danno di sé un'immagine completamente diversa. Quindi i ragazzi sono camaleontici, cambiano, a casa raccontano un po' le cose come fa comodo a loro, e secondo me, ecco, il ruolo del genitore non dovrebbe travalicare, non dovrebbe essere quello di andare a contestare, a litigare. Poi insomma, leggendo i giornali, in questo caso particolare del Parini di Milano, anche con toni abbastanza surriscaldati, ecco. Certo. Questo no, perché comunque il messaggio che si passa a un ragazzo è comunque controproducente. Secondo me un genitore che si batte in questo modo e che cerca di ostacolare l'attività di un docente, in ogni caso dà un messaggio sbagliato. Però i professori non devono avere neanche paura di essere giudicati, perché insomma anche noi genitori qualcosa contiamo nella scuola, siamo chiamati a far parte degli organi collegiali, siamo chiamati a dare un sacco di soldi, perché ormai la scuola non ha i soldi neanche per comprare non so, l'armadietto. Organizziamo qualsiasi cosa per raccattare soldi e che ci venga data anche la possibilità però di esprimere qualche giudizio ogni tanto. Sì, sì, i giudizi, sì, però ecco, tenendo sempre presente che comunque un docente ha la libertà didattica e questa ce l'hanno concessa ed è una cosa bella di cui noi possiamo usufruire, e ricordarsi sempre che in classe comunque i genitori non ci sono e quindi non vedono mai con i loro occhi. Io mi ricordo fui chiamata a dare un giudizio su quell'episodio famoso che è successo in Sicilia diversi anni fa nel 2007, mi sembra, quando quell'insegnante fece scrivere al ragazzino che aveva molestato, insomma, uno offendendolo, dandogli di omosessuale, di gay, gli fece scrivere 100 volte nella pagina del quaderno io sono un deficiente. Come si fa? Io non lo so. Secondo me i genitori hanno molto, molto da lavorare a casa con i loro figli, quindi secondo me dovrebbero dare la priorità a stare loro dietro, seguirli, educarli, fare il lavoro grosso, insomma, perché poi il lavoro grosso spetta alla famiglia. Tante volte questi ragazzi vengono in classe e sono maleducatissimi, allora sarebbe come se io andassi a suonare il campanello a una famiglia e dire: ma voi che cosa avete fatto in questi primi 15, 16, 17 anni di vita con questo ragazzo che è impresentabile in un ambiente sociale? Quindi siccome io non vado a casa dei genitori, io gradisco che non vengano nemmeno a dire niente a me. Italia in controluce, avete ascoltato la seconda edizione, torniamo lunedì alle 6.30 su Radio 24.